IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Riccardo Pietramissa, benvenuto. Grazie, eccomi qua. Allora, lei è docente di progettazione di endoprotesi al Politecnico di Milano. Endoprotesi, ce lo chiarisca subito. Ma le endoprotesi sono delle protesi, cioè dei sistemi di sostituzione di tessuti e organi che vengono impiantate dentro il corpo umano. Ad esempio una protesi d'anca è un'endoprotesi. Beh, noi già in altre puntate di IA, intelligenza in prima linea, abbiamo trattato il tema del cervello, che non può essere appunto questa cosa collocata solo dove sappiamo, ma c'è una intelligenza diffusa nel corpo. Nel vostro lavoro si sta ormai progettando e facendo ricerca da un po' di tempo, con successi anche significativi, nel mettere insieme materiale biologico naturale, quello del nostro corpo, e invece materiale quasi biologico artificiale. Com'è che funziona questa interfaccia? Ma sì, mi lascio fare una piccola premessa sul tema intelligenza, che lei giustamente parlava di intelligenza diffusa, no? Questo concetto non facilissimo da comprendere. Ecco, quando noi studiamo il corpo umano, comunque i tessuti biologici viventi, per poterli, diciamo, sostituire con dei dispositivi artificiali, no? Quindi si parla di intelligenza naturale, intelligenza artificiale, si parla di cuore artificiale, e ci sono tanti di esempi. Il concetto vero di intelligenza è che i sistemi biologici sono tutti reattivi, quindi reagiscono a degli stimoli, si comportano in un certo modo e hanno un'intelligenza che non appartiene al concetto di consapevolezza che noi naturalmente attribuiamo all'intelligenza, ma capacità di elaborare in maniera proficua informazioni per risolvere problemi, anche se non c'è la consapevolezza di farlo. Ecco, questo è un po', se vuole, lo schema con cui viene affrontata l'intelligenza diffusa nel corpo umano per un progettista, che è un ingegnere che deve progettare un dispositivo. Allora, molto chiaro. È chiaro il concetto. Allora, se io devo progettare un dispositivo che deve sostituire una funzione del corpo umano e deve essere impiantato chirurgicamente dentro il corpo umano, questa funzione di fatto è una funzione che dialoga con le altre funzioni dell'organismo. Cioè, se io cambio una gomma a un'automobile perché ho forato il pneumatico, e il pneumatico funziona in quanto tale, okay? Cioè il motore non si accorge del pneumatico se funziona o no, il motore funziona anche senza pneumatico. Ecco, nel corpo umano questo non è vero, per cui se c'ho un componente che si ammala e tutto il sistema ne risente, perché tutto il sistema comincia ad agire per riparare quella cosa lì o per eliminare il problema. Nel caso dei trapianti questo è molto noto: se io trapianto un cuore e sostituisco il cuore malato di un paziente con un cuore sano di un altro paziente, il cuore funziona, ma il sistema intelligentemente dice: ma questo non è il mio cuore, quindi potrebbe essere un soggetto esterno, e cerca di eliminarlo. Allora, quando noi per esempio pensiamo di sostituire alcune funzioni che noi chiamiamo intellettive, no? Per cui ad esempio io devo comandare un arto, no? Io impianto una protesi e voglio comandare col pensiero, diciamo così, una mano. E si fa, questo si fa. Certo che si fa. Si fa perché siamo in grado di leggere i segnali che arrivano dal cervello. Quindi il cervello li elabora, mi lasci dire come gli pare in questo momento, non ci interessa come li elabora. Arrivano a degli, tramite il sistema nervoso periferico, io sono in grado di leggere quel segnale, sono in grado di riconoscere a quel segnale che attesa di effetto corrisponde e produrre quell'effetto con un sistema artificiale che può essere di vario tipo, azione un motore per esempio. Il tema vero è come faccio a farlo in una potenziale complessità. Per esempio, io nella mano non è che muovo solo il dito, ricevo anche un segnale di calore dal dito, ricevo un segnale di percezione tattile, posso avere un tema di generazione di forza adeguata, no? Se prendo in mano un uovo, non devo romperlo quando lo prendo in mano. Se prendo in mano un oggetto che pesa 10 kg, devo essere in grado di sostenere 10 kg. Cioè, quindi c'è anche, e questo me lo dice l'occhio, perché l'occhio dice: ma guarda che quello è un uovo, non è un peso, no? E quindi devo essere in grado di avere una un'informazione complessa. Ecco, questo è una sfida oggi, no? Siamo consapevoli di molte delle specifiche di progetto, quindi delle complessità, non tutte sono oggi risolvibili o, mi lasci dire, facilmente risolvibili, quindi accessibili al largo pubblico. Ma perché in quel punto c'è qualcosa che deve svolgere una funzione particolare, però abbiamo a che fare con tessuti che in realtà ne stanno facendo e continuano a farne molte altre. Quindi il tessuto artificiale non può essere scomposto con tante apparecchiature, deve essere anche lui in grado di svolgere molte funzioni. Ma cerco di farle un esempio, perché questa cosa che lei sta dicendo in effetti è molto pertinente e è, a mio parere personale, una delle sfide più rilevanti che oggi abbiamo di fronte. Il tema è questo: i tessuti biologici sono una straordinaria ottimizzazione di funzioni, dove il criterio di ottimizzazione è di fatto, mi lasci dire, la dimensione fisica. Cioè noi abbiamo un muscolo, lei supponga il muscolo con cui lei è in grado di stringere il pugno e afferrare un oggetto, quindi i muscoli di un braccio, di un avambraccio, che sono dei tessuti in grado di convertire energia chimica, ossigeno, zucchero, eccetera, in energia meccanica, in grado di smaltire il calore che producono durante la conversione, in grado di generare forze di tipo diverso e via discorrendo. Noi per fare tutte queste funzioni abbiamo bisogno di componenti tecnologici diversi, un cavo elettrico che porta energia elettrica, un convertitore che mi converte energia elettrica e quindi un attuatore in energia meccanica, uno smaltitore di calore, normalmente usiamo dei radiatori, no? Ecco, tutte queste cose, non abbiamo un materiale che abbia tutte queste funzioni. Un materiale artificiale, dice, dovremmo costruire una specie di armadio in cui si infila l'arto. Certamente siamo in grado di fare molta miniaturizzazione, no? Abbiamo davanti le nanotecnologie, abbiamo tante cose miniaturizzate, però dal punto di vista concettuale noi stiamo mettendo insieme funzioni che sono espletate da organi diversi, mentre il muscolo è in grado di fare tutta questa funzione. Allora, in alcuni casi non è un problema, quindi siamo in grado di fare una gamba fatta di tanti pezzi, perché una gamba artificiale è fatta di tanti pezzi, ma comunque un organo esterno è comunque di grandi dimensioni, va bene. Ma si capisce che se dovessi fare il cervello, no, mi si pongono diversi problemi di miniaturizzazione. Allora, una delle sfide che oggi la medicina, la ricerca biomedica e bioingegneristica sta guardando è quella di costruire i tessuti biologici. Come si fa? Ma diciamo, esiste una branca abbastanza ormai consolidata che va sotto il nome di medicina rigenerativa o ingegneria dei tessuti, che i tessuti sono prodotti dalle cellule, okay? Ognuno di noi è pieno di cellule e le cellule producono i tessuti. Esistono cellule specializzate per produrre il tendine piuttosto che la pelle, piuttosto che la cornea. Allora, se io sono in grado di prelevare delle cellule da un essere umano, di coltivarle su materiale artificiale in un ambiente controllato e far sì che queste cellule producano il tessuto, ecco che io ho disponibile un tessuto con cui posso replicare delle funzioni, perché quel tessuto le ha. Ora, questo si fa già in clinica, voglio dire, per tessuti molto semplici, la cartilagine, che è un tessuto, diciamo, dalle funzioni elementari, è molto più difficile farlo per tessuti complessi, evidentemente. Tenga presente però che avere un tessuto prodotto da cellule è comunque un tessuto biologico, quindi che ha una propria vita. Mentre io un pezzo di metallo lo metto lì e quello mantiene le sue caratteristiche nel tempo, tranne che non lo faccia corrodere, il tessuto deve essere tenuto vitale. In tal senso l'unica mia aspettativa è di impiantarlo in un organismo che lo faccia vivere, lo faccia crescere e gli dia tutte le caratteristiche perché questo avvenga. E lì di nuovo c'è il tema della compatibilità, che è un tema che ritorna sempre, no? Quindi la nostra compatibilità può essere una compatibilità di funzioni, cioè sono in grado di avere una funzione compatibile con quella mancante per cui l'organismo la riconosce e gli va bene. C'è una compatibilità di tipo biologico, e cioè riconosce quel materiale o quel tessuto come qualcosa di buono e non aziona intelligentemente meccanismi di difesa, di respingimento dell'intervento e via discorrendo. Riuscite a fare questo? Cioè? Sicuramente esistono molte esperienze oggi che indicano questa strada come la strada più promettente. Ecco. Come in tutta la ricerca scientifica e tecnologica, non ritengo che sia mai opportuno annunciare soluzioni che di fatto non sono ancora disponibili, stabili, ma certamente la comprensione di questi fenomeni, che si basa su ricerca scientifica fondamentale, quindi capire quali sono i fenomeni di funzionamento dei sistemi biologici anche nei confronti della loro interfaccia con i sistemi artificiali, è ricerca scientifica, dalla quale però se ne possono derivare informazioni utili per la progettazione di soluzioni. Riccardo Pietrabissa, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, a presto.